Thank you.

estranzi teri ospire viementi, in amaritudine loquor miementi, factus di materia, finis veramenti, simili su foglio, piccoli udventi, consideri proprio, dir sapienti, su la pietra ponere, se le fondamenti, stoldo seghe con parlor fluvio lamenti, subbiore tramite, molto permanenti. Thank you. Ita perna post vesperam nudus rege crietur. Et sic tenudatus vest clamabit. Nostre vite gaudea, abstulisti omnia. Thank you. Thank you. Ineffabilis, membris da certis labilis, primus ineffabilis, membris da certis labilis, si, puer cum puello laborare tur in cellula, felix conjunctio. Oh, yeah. totus arbeo. Novus, novus, novus amores Novus, novus, novus amores, patria, patria, patria.